Pino Costalunga, che ha curato la riduzione drammaturgica e la regia dello spettacolo L'amico ritrovato, che andrà in scena venerdì 26 gennaio in doppia replica alle ore 9 e alle ore 11 al Teatro del Lido di Ostia. Pino, benvenuto. Benvenuto, ben trovati voi, grazie. Allora, ti chiedo subito cosa apprezzi di questo testo. Apprezzo soprattutto la grande storia d'amicizia che c'è dentro. Poi naturalmente un testo che si svolge in un periodo tremendo che è quello della presa del potere di Hitler in Germania e soprattutto la stesura delle leggi razziali che costringono molti ebrei ad andarsene e comincia la vita dura degli ebrei. Questo testo però è bello, il racconto di questa forte amicizia tra due ragazzi, un ebreo e uno appartenente a una nobile famiglia di origine polacca, però filonazista, che vivono in questo periodo, ognuno viene da una propria tradizione culturale, ognuno lo vive a suo modo, però l'amicizia è superiore a qualsiasi cosa. Poi gli avvenimenti la travolgono, questa la rendono molto difficile, ma l'amicizia resta. Ed è bello, secondo me, che i ragazzi d'oggi vedano una storia di grande amicizia che può vincere anche il potere e le difficoltà più difficili. Ed è bello anche perché dallo spettacolo io ho cercato che venga fuori che non è una cosa passata, non è una cosa del periodo nazista. Io dico sempre: i nazismi si nascondono dietro l'angolo, sempre e dovunque. Questo spero che emerga anche dallo spettacolo e volevamo che emergesse dallo spettacolo. Ecco, oltre a questa attualizzazione, su cosa hai puntato? Qual è stato il lavoro di riduzione? Dunque, è stato un lavoro soprattutto di riduzione del testo, anche perché gli eredi proprio ci avevano obbligato ad attenersi al testo, ma io sono stato ben felice di attenermi al testo perché il testo è bellissimo. Poi la scena è molto semplice perché partiamo con Hans, che è il protagonista ebreo vecchio in America, che ricorda la storia appunto, e quindi è un piccolo salottino con uno schermo, in questo schermo dove vengono proiettati dei disegni che si muovono, che cambiano, proprio dei disegni quasi a fumetto, che diventa un po' il luogo della memoria, del ricordo, dei momenti felici e tristi di questa passata amicizia. Ecco, quindi questo un po' la messa in scena dello spettacolo. Gli attori sono due, perché la storia poi viene raccontata da Hans, ma anche da Conradin, che è appunto quello che poi, non svelo adesso il finale per chi non conosce la storia, che è l'altro amico, e perché tra l'altro io non mi sono basato solo su Amico ritrovato, ma anche su Un'anima non vile, che è sempre un romanzo successivo di Ullmann, che vede la stessa storia però vista dal punto di vista di Conradin, cioè dell'altro protagonista, praticamente del protagonista tedesco. Pino, che tipo di percorso sta facendo questo spettacolo? Dunque, lo spettacolo ha qualche anno, l'abbiamo fatto 2 anni fa ed ha girato l'Italia, diciamo, soprattutto è visto da ragazzi di scuole medie superiori e ci è capitato che l'abbiano visto anche ragazzini di quinta elementare che però magari con l'aiuto degli insegnanti che li avevano preparati riescono a seguire bene, quindi ha soprattutto una distribuzione legata al mondo della scuola, viene soprattutto mostrato ai ragazzi, anche se poi ha fatto delle serate, o anche perché è uno spettacolo che si presta giustamente anche a essere presentato in serale o in pomeridiana a un pubblico adulto, insomma. Perché comunque l'amico ritrovato anche il libro non è propriamente un libro per ragazzi, io dico sempre che è un libro. Pronto? Sì, pronto? Ah, sì. Senti, Pino, ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sullo spettacolo e sulla tua attività? Allora, guarda, la produzione è di Fondazione Aida, quindi se voi andate a www.fondazioneaida.it potete trovare riferimenti e di questo spettacolo un po' di tutte le produzioni che fa Fondazione Aida di Verona, che è un gruppo teatrale di Verona che fa teatro per ragazzi ma anche teatro per adulti. Quindi troverete tutti i riferimenti, tutti i riferimenti per lo spettacolo e anche per le altre cose. Benissimo. Allora, salutiamo Pino Costalunga, che ha curato la riduzione drammaturgica e la regia dell'Amico Ritrovato, in scena venerdì 26 gennaio, in doppia replica alle ore 9 alle ore 11 al Teatro del Lido di Ostia. E Pino, un saluto, un in bocca al lupo e alla prossima. Io ringrazio voi e in bocca al lupo anche a voi. Grazie e alla prossima.